La lezione di stasera è dedicata al ringraziamento, come abbiamo visto nel titolo, e è successo una volta a Gerusalemme, è nato un bambino in una famiglia importante di Gerusalemme, un bambino molto intelligente, molto bravo, però quando è arrivato a una certa età, un'età in cui normalmente un bambino inizia a parlare, questo bambino non ha detto una parola. E così il tempo passava, una sera, il tempo passava e il bambino non parlava. E l'hanno iniziato a portare in giro dai medici, nelle cliniche, eccetera, eccetera. E dopo tutti gli accertamenti fatti tante volte, punto di vista medico, hanno detto non c'è alcun problema, però non si spiega e non si capisce per quale motivo il bambino non dice nulla. E allora, buonasera, ci sono i fogli finiti? No, guardate insieme. Hanno detto no, non c'è nessuna spiegazione. Sono passati un po' di anni. Il bambino aveva circa 5 anni. Un giorno si sono messi la famiglia a tavola a cenare e a un certo momento questo bambino ha detto: "Ma che schifo questa zuppa!" E sono caduti dalle sedie, papà e mamma, una cosa incredibile, sono quasi svenuti. Ho detto: "Ma perché fino adesso sei stato in silenzio se puoi parlare?" Ha detto: "Non so, fino adesso era tutto a posto, non c'era nessun problema." Natura una persona non ama ringraziare. Anzi, il contrario, per natura una persona ama lamentarsi e sfogarsi e dire cosa non va bene. Mentre invece tutto ciò che va bene è normale che vada bene, non è una cosa particolare per la quale bisogna ringraziare. Questa è la natura dell'essere umano, molto, diciamo, la maggior parte delle persone. Però la Torah la vede la cosa in maniera differente, chiaramente. Ci sono molte mitzvot nella Torah che sono dedicate proprio al riconoscere il bene che ci viene dato, a ringraziare e quindi di educare i giovani, i piccoli, i bambini in questo senso. Il nome stesso che noi chiamiamo il nostro popolo, Yehudim, viene dalla parola ringraziamento, perché Yehudim viene da Yehuda. Il nome Yehuda è il nome che Lea, una delle madri di Israele, dà al suo figlio Yehuda. E dice Hapa'am Odeh et Hashem, questa volta ringrazio, viene dalla parola Todah, è un segno di ringraziamento. Le prime parole che un ebreo dice la mattina quando si sveglia, Odeh ani lefanecha. No, giusto, giusto. Grazie. Ringrazio. Ringrazio HaKadosh Baruch Hu che mi ha ridato l'anima dopo questa notte di sonno. Anche in generale la giornata dell'ebreo, c'è scritto nello Shulchan Aruch che bisogna cercare di rientrare ogni giorno in 100 Berachot, 100 volte Baruch Atah Hashem, che molte di queste volte sono espressioni di riconoscimento e di ringraziamento. Allora, per approfondire un pochino questo tema qui, che è un tema che ci può aiutare ad aprire la nostra esistenza a più positività, a più apertura, a più simcha, a più gioia, a molta, molta berakha, e che tra l'altro è anche una cosa che non sempre era così scontata nel pensiero ebraico, così come lo è nella filosofia, nel pensiero ebraico, così come lo è diventato con l'avvento del hassidismo. Con l'avvento del Baal Shem Tov e i successori maestri del hassidismo che hanno puntato moltissimo su questo questo aspetto dell'ebraismo e perché lo ricordiamo oggi? Perché questa settimana, mercoledì, è il 18 di Elul, che è un giorno importante nel hasidismo, essendo stato il compleanno del Baal Shem Tov e anche del Alter Rebbe, l'autore del Tania, il 18 di Elul. Allora, la cosa non è legata solamente al 18 di Elul, ma chiaramente, come sempre, è un tema inerente alla parashah della settimana. Perché la parashah della settimana apre con la mitzvah molto nota dei Bikurim, ovvero delle primizie. La mitzvah delle primizie è che nel momento in cui vengono fuori i primi frutti, bisogna scegliere i più belli e il contadino li raccoglie, li mette in una bella cesta e poi, come descriveremo un pochino più avanti, vanno portati a Jerusalem, vanno portati a Gerusalemme, al Bet HaMikdash, e vengono accolti dai Kohanim, ai quali vengono dati in dono, e c'è tutto una cerimonia di ringraziamento che accompagna questo dono. Prima di arrivare alla descrizione della cerimonia, vediamo che la Torah dice che l'obbligo di donare e di portare queste primizie verso Jerusalem, un obbligo che entra in vigore non dal primo momento in cui siamo entrati in Eretz Israel e dai primi raccolti di frutta che abbiamo fatto, bensì solamente dopo che tutto l'intero popolo è riuscito a fissarsi, ad entrare in Eretz Israel, a ereditare, a prendere i propri territori. Perché, in effetti, sì, il popolo è entrato in Eretz Israel, ma non tutti hanno ricevuto la propria parte della terra nello stesso momento. Anzi, tutta la durata delle varie conquiste e le varie spartizioni della terra che sono avvenute, finché tutte le tribù hanno preso la loro parte di Eretz Israel, è durato questo 14 anni. Quindi può essere che qualcuno già nel secondo o nel terzo anno ha prodotto qualcosa, mentre invece qualcun altro fino al 14esimo anno ancora non aveva la terra. Allora la Torah vuole sottolineare, proprio all'inizio della nostra parashah, quando parla di questa mitzvah, che la mitzvah dei Bikurim esiste solamente dopo che tutti sono partecipi alla Eretz Israel. Vediamo proprio la citazione della Torah, è la prima citazione tratta dalla nostra parashah, all'inizio 26:1. La Torah dice: Vehaya ki tavo el haaretz, quando sarai entrato nel paese, asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, che l'Eterno tuo Signore ti dà in possesso ereditario, virishta viyashavta ba, e dopo che ne avrai preso possesso, allora ve la kachta mereshit kol peri adama, allora dovrai prendere dalle primizie del prodotto della terra, eccetera, eccetera, finché dice vesamta batene, lo metterai in quella cesta che abbiamo detto, vealachta elamakom, e andrai verso il luogo, asherivchar Hashem Elokecha, che sarà prescelto dal Signore tuo Dio, le shaken Shemo Sham, per far posare, per far fare come dimora del suo nome lì, in quel luogo che sarebbe chiaramente il Bet HaMikdash. E subito dopo abbiamo la citazione di Rashi sulla fotocopia. Rashi dice: questo versetto ci vuole insegnare, visto che dice ne avrei preso possesso, riferendosi a tutto il popolo. Magid, questo ci dice, ci insegna, Shelo nitchayevu bebikurim, che non sono stati obbligati a portare i bikurim, non c'è stato l'obbligo, finché ad shekavshu et haaretz vechilkuha, finché non hanno fatto tutta la conquista che era necessaria e l'hanno anche suddivisa, hanno fatto la spartizione tra le tribù, cosa che durò appunto, come dicevo, 14 anni. Questa è una cosa che molti commentatori cercano di approfondire perché effettivamente sembra che vada contro lo spirito stesso della mitzvah di ringraziare. Perché se tu ottieni, tu ringrazi. Però se la mitzvah stessa di ringraziare dice no, in questo caso non sei obbligato a ringraziare, allora si crea una situazione strana dove alcuni del popolo vanno avanti a consumare quel prodotto che gli è stato concesso, che la terra gli ha dato, che HaKadosh Baruch Hu gli ha dato questa berakha, e non devono dimostrare il ringraziamento e tranquillamente consumano. Mentre gli altri ovviamente ancora non lo devono fare perché non hanno la loro parte, non hanno la terra, però quelli che ce l'hanno almeno dovrebbero in qualche maniera riconoscere qualcosa. Invece no. Effettivamente è una cosa strana, è un quesito che si pongono, appunto, come dico, molti dei mefarshim, molti dei commentatori. Cerchiamo un pochino di approfondire questo aspetto della mitzvah. Noi adesso stiamo andando verso la fine della Torah, di tutta la Torah. Abbiamo non molte parashiot che mancano fino alla fine della Torah. E questa qui che stiamo leggendo questa settimana, Kitavo, è veramente, si può dire, la parasha, e ora vediamo la fonte di chi dice questo, la parasha in cui troviamo la conclusione delle mitzvot della Torah, delle indicazioni, delle istruzioni. In questa parasha ci sono varie mitzvot. Nella prossima parasha ce ne sono altre due, però, come ripeto, uno dei grandi maestri commentatori, in particolare, nello specifico si chiama Ramban Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, scrive, e adesso abbiamo anche la citazione, scrive che, secondo lui, le mitzvot vere e proprie della Torah concludono con queste qui. Quelle del riconoscere il fatto delle primizie, ringraziare per le primizie, è un'altra simile quando si portano le decime, anche lì c'è un ringraziamento, un tipo di riconoscimento che si fa, si chiama Vidui Maaser, e anche lì il tema è simile, quello di riconoscimento o di ringraziamento. Secondo lui queste sono le ultime mitzvot. Le prossime tre mitzvot che ancora ci sono nella Torah sono mitzvot generali, non sono dei precetti specifici, devi comportarti in una determinata maniera, perché vi dico subito quali sono. Sono una e ve'alachta bidrachav, segui i modi, le vie, i comportamenti di HaKadosh Baruch Hu, è una cosa molto generale, chiaramente, non è un'indicazione di un precetto specifico, è un modo di vivere, vivi secondo le indicazioni. Sì, è un po' un resoconto, diciamo, di tutte le mitzvot. L'altra di queste tre è la mitzvah di Hakel. Come vi ricordate, oggi ci troviamo quest'anno nell'anno del raduno, e l'Hakel, che anche questa è una mitzvah generale, perché è una mitzvah per la quale bisogna riunirsi per parlare delle mitzvot. Quindi non è di nuovo un precetto specifico. E l'ultima è quella di scrivere un Sefer Torah. Ogni ebreo ha l'obbligo di farsi scrivere o scrivere per sé un Sefer Torah. Parentesi, molti maestri, grandi maestri, sono dell'opinione che alachicamente oggi rientriamo in questa mitzvah semplicemente comprando libri di Torah. Perché il motivo per cui la Torah dice che ognuno deve scriversi un Sefer è per poter leggere e studiare la Torah. Quindi, cosa che oggi ovviamente facciamo in un'altra forma. È ovvio che chi ha le possibilità e fa scrivere o scrive per sé un Sefer, è chiaramente è una cosa molto importante, però non è che chi non ha questa possibilità viene a meno perché appunto si rientra nella mitzvah in questa maniera. Vero? Sì, certo, è una cosa, partecipare a un Sefer anche con una sola lettera è già una cosa importante. Queste sono le ultime tre mitzvot che, come vedete, sono delle indicazioni molto generali. Però come indicazione di precetto specifico, il Ramban, appunto, dice che questo è l'ultimo messaggio di Mitzvah che Mosè ci dà, e questo del ringraziamento che vediamo nella nostra parasha. E citiamo subito le parole del Ramban, non prima di citare il versetto relativo al suo commento. Il suo commento ovviamente è relativo a questo versetto, che è alla citazione numero 2 sul foglietto, nella nostra parasha, al 26:16, c'è scritto che Mosè dice al popolo ebraico: Hayom Azeh, quest'oggi, questo giorno qui, Hashem Elokecha Metzavecha La'asot, Signore tuo Dio ti istruisce, ti comanda di mettere in atto et ha'chukim ha'ele ve't ha'mishpatim, questi precetti, questi statuti, questi statuti e queste leggi. Ora questa parola, queste due parole, Hayom Azeh, questo giorno qui, per il Ramban sono l'indicazione di una conclusione. Come un oratore quando conclude un discorso e riassume e cerca di dare un messaggio forte, concludere con qualcosa di potente, allora non ci dimentichiamo che il libro di Devarim è un discorso di Mosè, ultimo discorso di Mosè al popolo ebraico, dove ricorda tutte le mitzvot e ricorda tutte le istruzioni e i comportamenti che saranno da seguire una volta entrati in Eretz Israel. E dice Ramban, guardiamo la citazione, Mahu leshon hayom hazeh, cos'è ad un tratto questo modo di dire che usa hayom hazeh, questo giorno qui, shenire che nosach shel chatima, sembra un linguaggio usato per concludere un discorso. Allora Ramban dice inne hishlim Moshe, ecco che Moshe ha concluso le vaeret Torah, di spiegare la Torah, u lechadesh kol mitzvot, e di rinnovare la spiegazione di tutte le mitzvot asher tziva oto Hashem lechadesh lahem, che HaKadosh Baruch Hu gli ha istruito, comandato di trasmettere a loro, cioè anche mitzvot nuove, tra virgolette, che prima non erano state espresse. Ulekach amar hayom hazeh, e perciò, dice Ramban, Mosè disse oggi, questo giorno, perché ki kvar ishlamti lecha hakol, oggi sei in grado di fare quello che HaKadosh Baruch Hu chiede di te, perché sei in grado oggi, perché oggi ho finito di darti tutte le istruzioni, adesso puoi andare a farle. Ecco che la parola hayom hazeh va ad indicare ho concluso il discorso. Ora conclude il discorso ed ecco che hayom hazeh puoi andare a iniziare a mettere in atto. Molto interessante questa visione del Ramban, e anche se ci pensiamo ha molto senso nel contesto e nel testo del versetto. Ora questa ultima, appunto penultima mitzvah, se vogliamo, della Torah, questa della Bikurim, delle primizie, veniva messa in atto con, come alludevo prima, con tutta una cerimonia nota a molti di voi, perché avete sicuramente visto e studiato, che non troviamo in qualsiasi altra mitzvah della Torah una cosa simile a questa. Il contadino andava, vedeva le prime sbocciature dei primi frutti, eccetera, attendeva le prime primizie e, scegliendo le migliori, mentre ancora stavano sugli alberi, li segnava con un filo, con qualcosa, per indicare questo bellissimo frutto sarà per Bikurim, per le primizie, per il Beit HaMikdash. E dopo che erano mature, dopo che la frutta era maturata, si portava appunto in un bel recipiente, un cesto particolare, alcuni che potevano permetterselo anche in cesti d'argento, d'oro, eccetera, sera, benvenuti, e si riuniva in un luogo di punto di raccolta con altri contadini di quella zona, si riunivano e andavano, iniziavano il viaggio, il cammino verso Gerusalemme. E così pian piano, di villaggio in villaggio, di zona in zona, si aggiungevano sempre più persone in questa grande carovana parata di Bikurim. Si faceva andare avanti un toro tutto abbellito con le corna, con stoffa, con cose, con e tutto quanto, e si procedeva in questa carovana, in questa parata, anche con canti accompagnati da musica. Era veramente qualcosa di particolare. E quando arrivavano verso le porte di Gerusalemme, i Kohanim uscivano fuori per accoglierli verso le porte di Gerusalemme, della città, e a loro volta con canti, con ringraziamenti, con musica, si tornava verso il monte del Harabait, il monte del Tempio. Nel Bet HaMikdash, il contadino, ogni contadino, dava in mano al Kohen quello che era il suo dono e recitava un testo, che è un testo scritto nella nostra parasha, di ringraziamento. Questo testo si chiama nelle fonti talmudiche Mikra Bikurim, ciò che si legge quando si portano i Bikurim, molto semplice. E in questo testo appunto si ringrazia per tutto il bene che HaKadosh Baruch Hu ha fatto con Am Israel, e da quel momento, cioè da una volta fino a quel momento. Vediamo la descrizione, va bene, diciamo che la descrizione di quello che vi ho detto è tratta dalla citazione, anche dalla citazione del Maimonide, di Rambam, che è qui citato, e quindi non ve lo ripeto. Anzi, leggiamo il testo, dai. Numero 3. Rambam Ilchot Bikurim. Ketzad mafrishim bikurim. In che maniera si separano, si prelevano i bikurim dal resto dei frutti? Allora Rambam dice, come dicevamo prima, Yored Adam letoch sadehu. La persona va nel proprio campo. Veroete nasce bikra. Vede, per esempio, dei fichi che ha dato i primi frutti, degli alberi di fico che hanno dato il primo frutto, Koshran Bagemi li lega con un filo, e per indicare, Veomere dice, Harei Elu Bikurim, questi saranno Bikurim, queste saranno le primizie. E poi continua a descrivere, e finché arriva a parlare di tutte le città che si riuniscono, Kol Ha'ayaroche Ba Ma'amad, Mitkanzot Li Roshel Ma'amad. Il Ma'amad, bisognerebbe aprire una parentesi per spiegare cosa è, però adesso non è il contesto. Comunque c'erano, diciamo, dei capoluoghi per motivi di partecipazione in ciò che avviene nel Bet HaMikdash. È chiaro che ciò che avviene quotidianamente nel Bet HaMikdash è a nome di tutto il popolo ebraico, però non tutto il popolo ebraico può essere presente lì tutti i giorni, ok? Allora c'è una sorta di rappresentanza che si chiama Ma'amad, dove a turno gruppi o città o cittadine di persone si riuniscono e fanno delle tefilot in concomitanza a ciò che avviene al Bet HaMikdash in quel giorno, e con questo rappresentano il resto del popolo. È come se il popolo nominasse degli agenti per rappresentarli in questa funzione. Allora anche qui si usava il momento di quello che era la città del Ma'amad di quel momento per, come punto di raccolta anche per i Bikurim. E continua a descrivere, Vehashor, appunto il toro, Olech Lifnehem, veniva fatto andare avanti, Vekarnav, per guidare, diciamo, il gruppo, Vekarnav Mitzupim Zahav, con l'oro che copriva le sue corna, Vateretz El Zait Berosho, una corona di foglie di ulivo sulla sua testa, Vehachalil Makel Lifnehem, con il suono del Khalil, che dovrebbe essere una sorta di flauto, Ace Magim l'Irushalayim, finché giungevano a Gerusalemme, Magim la Harabait, una volta poi arrivavano appunto al monte del Tempio stesso, Notel Kolechad Salor Ktefo, ognuno alzava la sua cesta, che forse era appoggiata su un mulo, su un asino, lo alza sulla propria spalla, sulle proprie spalle, e dice, Alleluia, Alleluia, Becocciò. Si recita questo salmo che è il Salmo 150. Allora, questa grande simcha, questa grande gioia, torna a sottolineare la domanda che ci siamo posti: per quale motivo abbiamo dovuto aspettare 14 anni finché l'ultimo ebreo avesse ottenuto la sua parte di Eretz Israel prima di poter iniziare a fare questa mitzvah? Allora, come dicevo, molti commentatori si sono occupati di questo discorso, anche il Talmud stesso. Il sunto della motivazione per questa cosa è molto semplicemente che il ringraziamento, per essere un vero ringraziamento, deve essere completo. La Torah non vuole un ringraziamento così, che è tanto per ringraziare perché per uscire l'obbligo, ma un ringraziamento che è fatto con tutto il cuore. Un ringraziamento che è fatto con tutto il cuore è fatto con un cuore gioioso, e un cuore gioioso è un cuore che non ha altri pensieri in quel momento, ok? Ecco perché abbiamo dovuto aspettare 14 anni. Perché dal momento che tu avevi il raccolto del tuo campo, ma un altro Yehudi ancora era senza tetto, faceva sì che la tua gioia non sia completa, perché avevi altri pensieri. Di conseguenza la simcha non era completa e di conseguenza il ringraziamento non sarebbe stato completo. Assolutamente sì. Cioè, proprio per l'unità nel popolo, un elemento del popolo non può essere completamente gioioso e contento per poter ringraziare veramente con tutto il cuore finché anche l'altro può fare uguale. E finché non lo può fare, manca qualcosa anche nella mia parte. Anche se ho il campo, ho il frutto, ho il raccolto, ho la casa, ho tutto quanto. No, c'è una carenza. Non è una carenza evidente sul posto, ma è una carenza evidente e sentita nel cuore. Ecco perché il ringraziamento non è completo. Tra parentesi, quando si fa la Milà, si dice Shecheyanu, la Berakha delle cose nuove? Si dice o no? Allora, i sefarditi la dicono, gli ashkenaziti non la dicono. Una delle motivazioni per cui gli ashkenaziti non dicono la berakha di Shecheyanu nel momento in cui si fa la Milà è perché, nonostante la gioia di fare una mitzvah che non capita tutti i giorni, dove normalmente si dice Shecheyanu, comunque c'è qualcuno che sta piangendo. C'è qualcuno che gli fa male. Allora come possiamo dire questa berakha nel momento in cui qualcuno sta soffrendo? Questa è una delle motivazioni per dire il ringraziamento non è completo quando c'è qualcosa che manca. Sì. Però si deve comunque ringraziare. No, no, lo dice il padre. Nel caso che si dice, lo dice il padre, sì, sì. Bene, quindi la simcha deve essere completa. E questo ci fa tornare al tema centrale, che è quello del todà, quello del ringraziare in generale. Per approfondire questa cosa ci aiuterà vedere un pezzo della Mikra Bikurim, ovvero di quel brano che va recitato nel momento in cui si portano i Bikurim, che appunto è scritto sulla Parashah della settimana. Sulla Parashah è scritto, abbiamo la citazione al numero 4, è dal 26.5 all'inizio della nostra Parashah, c'è scritto proprio Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. E tu alzerai la voce e farai una dichiarazione davanti al Signore tuo Dio. Arami oved avi. L'arameo voleva distruggere mio padre. e all'arameo? Labano, Lavan, Lavan Arami. Quindi Jacob si trovava in problema quando era con Lavan. Vayered Mitzrayma, quindi quello era un problema. Un altro problema era poi Vayered Mitzrayma, quando scese poi in Egitto. Vayagor Shambi Metemeat, vi dimorò con un piccolo nucleo di persone. Quando ci giunse inizialmente, però vai Hisham, lì divenne le Goi Gadol Azum Varav, divenne un grande popolo, un popolo forte e numeroso. Poi però vai Yareu Otanu Amitrim, gli egizi si comportarono male, ci maltrattarono, comportarono male con noi. Vai Anunu, ci fecero soffrire e umiliare. Vaitnu alenu avodah kasha, e misero, imposero su di noi la schiavitù, il duro lavoro. Vayotzienu Hashem mimitzrayim, però poi dopo Hashem ci fece uscire dall'Egitto, yad chazaka, con mano forte, ubizroa netuya, con braccio disteso, ve'ata, poi si citano, continuo a citare la storia, e poi ve'ata, e ora inebati, ecco che sono venuto, Heveti et reshit peri adama, ecco, non che sono venuto, ecco che ho portato le primizie della frutta della terra. Ora, questa è un po' una visione storica nel ringraziare per il presente. Nel ringraziare per il presente guardiamo verso la storia, guardiamo verso il passato. Ed è chiaro che il ringraziamento è sempre più apprezzato quando si ringrazia per un bene ottenuto dopo una sofferenza. Benissimo. Però tra le sofferenze qui vengono citate solamente due. Quelle dell'arameo, Lavan, Labano, e quello della permanenza difficile sofferta in Egitto. Anche se... se guardiamo indietro alla storia, se già guardiamo fino a Jacob, possiamo trovare altre sofferenze e forse anche peggiori. Perché se vedessimo la vita di Jacob, che è qui citato, nel discorso di Labano, lui aveva problemi peggiori di Labano. Se leggiamo semplicemente le storie sulla Torah, il pericolo che lui poteva aspettarsi da Esav, da Esaù, che dichiaratamente voleva ucciderlo, era peggio di quanto voleva fare Lavan. Nella storia degli ebrei, che abbiamo parlato solamente della permanenza in Egitto, ci sono state altre cose che tutto il popolo avrebbe potuto ricordare e ringraziare: i miracoli del deserto, la sopravvivenza miracolosa, eccetera. Invece si scelgono solamente questi due episodi o questi due aspetti della storia qua. In un suo discorso il Rebbe spiegava che la natura, non la natura, la natura umana è di apprezzare, quindi di ringraziare ancora di più per un bene che deriva da un'esperienza di rettifica, ovvero una situazione anomala che poi si trasforma in una situazione positiva e più apprezzata. Quando si vive una faccia della moneta e poi si vive l'altra faccia positiva della stessa moneta, si apprezza di più. Certo, ci possono essere altre cose per le quali si deve ringraziare, ma l'apprezzamento è molto più profondo nel momento in cui una stessa cosa si trasforma e si vede la faccia positiva della stessa moneta che prima si è vista la faccia negativa. Perché allora si esprime proprio in questi due episodi? Ora vediamo. Ecco che l'ebreo arriva al Bet HaMikdash con il suo cesto pieno di frutta e ringrazia Kadosh Baruch Hu per essere in Eretz Israel e soprattutto per essere fisso in Eretz Israel, per avere un luogo che è una dimora, è una terra di appartenenza fissa. Non solamente arrivare in un luogo e poi non sapere se dovrà poi continuare a spostarsi fino ad arrivare ad un altro luogo. i due eventi nei quali siamo arrivati vicino a questo ideale, ma poi non ci siamo arrivati, erano questi due eventi qua. Nella storia di Yaakov con Labano è una storia molto bella, di prosperità. Sì, un inizio difficile, ma poi è lì che Yaakov crea la sua famiglia, è lì che nasce quasi tutta la sua famiglia ed è lì che nasce anche il suo benessere materiale, oltre al benessere spirituale, chiaramente, che per i tzadikim va insieme, ma il suo benessere materiale, la sua ricchezza proprio, deriva proprio dal lavoro che lui aveva creato con Lavan e presso di Lavan. Quindi c'era lì, in un certo momento si è sentita una grande tranquillità, si è gustato il bene della tranquillità, della calma. Però in un momento è cambiato tutto. E Yaakov dovette fuggire da Lavan. Questo era il primo episodio. Anche nel secondo episodio che abbiamo citato in questa parasha, nel Mikra Bikurim, cosa è successo? Gli ebrei erano in Egitto, si sono moltiplicati moltissimo, hanno prosperato, hanno avuto molto bene. Per la loro permanenza in Egitto in totale era più di 2 secoli, la parte della sofferenza era meno di 1 secolo, circa 8 decenni. Allora, nel complesso, anche lì c'è stata la stessa dinamica: il sentirsi tranquilli, il gustare la tranquillità, il bene, la permanenza, e poi di nuovo la trasformazione e il dover di nuovo fuggire, la sofferenza che è venuta prima, eccetera, eccetera. La Torah ha voluto scegliere questi 2 episodi proprio per sottolineare che il contrario di questi 2 episodi sono laddove si esprime sempre più profondamente l'apprezzamento del ringraziamento, di veramente avere la propria terra, che veramente è di Am Israel. Vediamo questa citazione al secondo paragrafo del numero 4, direttamente dal Likutei Sichot, da una raccolta di discorsi del Rebbe, dove dice così: Mitzvah Hava'ata Bikurim, la mitzvah di portare le primizie, lo hayeta hoda'a rak al etzem nitinata aretz ma Kadosh Baruch Hu Israel. Non era solamente un ringraziamento del fatto che Kadosh Baruch Hu ci ha dato la terra e basta, no? E la gamo bikar avurzesh bala nachla l'itiashvut kevua. Era soprattutto un ringraziamento per chi ha ricevuto un possesso ereditario fisso della terra, vezachal avi perot lashem, e di conseguenza ha potuto meritare di portare della frutta, per così dire, verso Hashem nel Beit HaMikdash. Lachen, perciò, tei lehazkir godel hachesed hazeh, per ricordare, per sottolineare la grande benevolenza, la grande bontà, il bene che Hashem ha fatto con noi, mazkir dugmatam, ricordiamo episodi simili, chasdei hamakom shenasu laavoteinu, altri beni, atti di bontà che sono stati fatti ai nostri avi, et yotam bemakom kavua, quando si trovavano in un luogo fisso, abitando in maniera fissa, ubemakom ahu lo zachu leshum tov, ma in quei luoghi alla fine non è venuto fuori il bene, e adrabba, al contrario, amdu aleinu lechaloteinu, si sono messi contro di noi per annientarci. E quindi proprio in questi 2 luoghi in cui siamo rimasti in maniera fissa, nel contesto minore Yaakov presso Lavan 20 anni, nel contesto maggiore il popolo ebraico in Egitto 210 anni, e ancora nonostante, se non per il chesed, se non per il bene di Hashem, sarebbero stati in pericolo di totale dispersione, distruzione, annientamento. Allora, questo ringraziamento del Bikurim, come dicevamo, ricorda questi episodi perché sono quelli nei quali si apprezza ancora di più quello che non c'era, al contrario, quando c'è, ovviamente il ringraziamento è maggiore. Ma l'importanza del ringraziamento, come spesso si dice, è ancora più profondo di solo questo. È perché il ringraziamento o il riconoscere il bene che ci viene fatto, che è la fonte del ringraziamento, il motivo del ringraziamento, è in realtà la radice di tutti i buoni comportamenti. Midot tovot, buoni modi. La radice dei modi buoni è la hakarat tov, il riconoscere il bene. Come dicevamo, è la fonte del ringraziamento, perché il ringraziamento e riconoscere il bene crea un sentimento di apprezzare, di apprezzamento e di simcha, di gioia. Quando una persona segna una cosa buona che gli è accaduta, allora segna la sua giornata, segna il suo modo di vedere il mondo, segna il suo legame con la cosa o con chi gli ha fatto questo bene. È chiaro che per lo stesso prezzo avrebbe potuto dire: ah, vabbè, ma questo non ha importanza, non vedere il bene, non riconoscerlo. Certo, è una cosa che spesso cadiamo in questa trappola, però al momento in cui cadiamo in quella trappola, cadiamo anche nella perdita di quella gioia che ci sarebbe stata, che avrebbe fatto parte di noi se non fossimo caduti in quella trappola. Diciamo, il gusto della vita, l'assaggiare il bene della vita, deriva da che cosa? Da riconoscere che c'è del bene. Perché chi punta solo sul negativo è chiaro che non gusta nessun gusto di bene. Che se tutto va per traverso, se tutto è visto come, vabbè, quello ha fatto così, però il suo interesse è un altro, e quello ha fatto questo, però veramente sta pensando a quello. Allora, se la mentalità ci porta a reagire solamente in questa maniera, è chiaro che chi perde di più siamo noi, perché ovviamente si chiude tutto il cuore. Quindi questo è importante in generale, come dicevo, però è quante volte più importante è questo nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. Quanto è ancora più importante questo messaggio? Perché? Perché noi possiamo rapportarci ad HaKadosh Baruch Hu in due maniere. O possiamo dire: alziamo le mani, tu sei onnipotente, tu sei il creatore, noi non abbiamo molta scelta, siamo piccole pedine, e che vogliamo fare? È così. Quindi il rapporto verso HaKadosh Baruch Hu basato su un sottomettersi, su un sentirsi niente, che veramente siamo niente davanti ad HaKadosh Baruch Hu. È vero che noi siamo i servi e lui è il padrone, è vero che c'è una lontananza abissale tra HaKadosh Baruch Hu e noi esseri umani, però è difficile vincere una guerra con persone depresse. È difficile costruire una città con persone depresse. Il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu non è solamente questo, è anche un rapporto di amore, un rapporto di affetto, un rapporto di apertura, e quindi un rapporto di simcha. E questa simcha e questa apertura e questo affetto parte da che cosa? Hakarat HaTov, dal riconoscere il bene, dal ringraziamento. In realtà non c'è al mondo alcuna altra cosa, alcun altro elemento che può prendere il posto della simcha, che può prendere il posto della gioia. Non c'è nulla che può fare quello che fa la gioia. Non c'è nulla che può avere un effetto su di noi come lo può avere, come l'effetto della gioia che ha su di noi. E quindi è possibile che una persona facesse la stessa cosa, ma se la fa con sottomissione, la fa in una maniera, e la stessa esatta cosa fatta con Simcha sembra completamente e totalmente una cosa diversa. E per questo la Torah stessa, come vediamo nella nostra parasha, e i maestri in moltissime fonti parlano dell'importanza di questa Hakarat HaTov. Cioè la Torah sa insegnarci, se possiamo dire così, quanto è importante anche per il nostro stesso benessere puntare molto su quell'altro aspetto, sull'aspetto di affetto, di legame ad HaKadosh Baruch Hu, di apertura e di gioia. Accennavo prima che questa settimana c'è il compleanno del Baal Shem Tov, quindi l'aspetto chassidico chiaramente in questo discorso è estremamente forte, molto prevalente, perché questo in realtà era il messaggio che un po' si era dimenticato nel corso della storia e che il Baal Shem Tov soprattutto ha molto sottolineato e molto voluto trasmettere, perché gran parte del pensiero della filosofia ebraica prima del movimento hasidico puntava molto sul male, cioè cosa dobbiamo fare per togliere la gelosia, cosa dobbiamo fare per togliere il desiderio, troppo desiderio di cose materiali, cosa dobbiamo fare per togliere la superbia, eccetera eccetera, tutte midot ra'ot, comportamenti negativi che bisogna cercare sempre di eradicare, di sradicare. Però quando ci si occupa solamente dell'aspetto negativo della cosa, a volte si rimane con l'aspetto negativo, ovvero si può accendere la luce e il buio da solo automaticamente sparisce, senza, come diceva uno, prendere la scopa e cercare di cacciare via il buio. Si può cercare, però è difficile. Quasi impossibile, forse impossibile. Il grande maestro della Kabbalah, il Ari HaKadosh, Ari Zal, ha detto un commento molto importante e interessante su questa parasha, dove in questa parasha troviamo tutta la lista di maledizioni, di conseguenze negative. E alla fine di tutta questa lista, tutto questo elenco, la Torah dice: tutto ciò Tachat asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha uvtuv levav. Tutto ciò perché non hai servito il Signore tuo Dio con gioia e contentezza. Il grande maestro Arizal diceva: non c'è scritto che tutto ciò è una conseguenza del fatto che non hai servito il Signore. Può darsi che hai servito il Signore, ma non l'hai fatto con gioia. Cioè non necessariamente la conseguenza è per una mancanza del servire Hashem, ma può darsi che ci sia stato il servizio di Hashem, ma senza l'elemento di Simcha. E questo stesso può essere causa appunto di una conseguenza. Per dire quanto è importante, come dicevamo, la Simcha. Il Baal Shem Tov poi ha sottolineato ancora di più questo messaggio, che effettivamente non c'è un motore forte quanto la Simcha per, come dire, spingere o per trainare la persona verso laddove vorrebbe arrivare. Questo è il motivo per cui ci viene detto di ringraziare, di aprire. Per ringraziare devi avere il cuore aperto. È difficile ringraziare con un cuore depresso, con un cuore chiuso, è quasi impossibile, è quasi una... È una parola forzata che si tira fuori per usare le buone maniere, ma non è sentita chiaramente. Ma per quanto questo tutto è semplice, per quanto tutti lo capiscono e tutti dicono vabbè, questa lezione che cosa serve? Già sappiamo questo, no? Sono cose scontate, ma per quanto è tutto scontato, non è facile. Non è una cosa facile, non è un comportamento, non è facile arrivare a questi sentimenti. E come dicevo all'inizio del discorso di quel bambino che ha detto vabbè, era tutto a posto, non dovevo dire niente, perché la nostra natura è che ciò che riceviamo è quasi scontato. e non ci rendiamo conto di quanto in realtà c'è per il quale dovremmo ringraziare. Fa parte della nostra natura e per questo è una cosa difficile lottare contro questa natura. La parola Todà include in sé anche uno strumento per aiutarci a superare questa difficoltà. Perché tutti sanno cosa vuol dire Todà. Todà vuol dire ringraziamento, ok? In realtà nella stessa parola c'è un altro significato. Per esempio nella Mishnah possiamo avere a volte una discussione tra due maestri e la Mishnah però poi concluderà: però i maestri Modim, Modim a quell'altro maestro. Che vuol dire Modim? Gli dicono grazie? No, non vuol dire gli dicono grazie, ammettono. Due maestri discutono e poi la Mishnah dice: però in questo caso discutono, ma in quest'altro caso ammettono, sono d'accordo che ha ragione lui. Ammissione. Ammissione vuol dire: io ho sbagliato, tu hai ragione. Ammettere non necessariamente una colpa, anche una posizione, un'idea, ok? Quando noi diciamo Modim anachnu lach nella tefilah, nella Amidah, e che nel senso semplice vuol dire ringraziamo, noi ti ringraziamo a Kadosh Baruch Hu per tutto ciò che ci hai dato, per l'anima che hai soffiato nelle nostre narici, eccetera. E anche però inteso come un'ammissione, che è un po' una sottomissione, no? Ti devi mettere un attimino sotto il tuo ego per dire: io ammetto. Questo forse è il motivo per cui è così difficile riconoscere bene, così difficile sempre ringraziare, perché il ringraziamento vuol dire anche un po' un'ammissione. Perché se io devo ringraziare te, vuol dire che io ti devo qualcosa. Vuol dire che io devo ottenere qualcosa da te. E non sono né un tuttofare, né onnipotente, e devo in qualche maniera ricevere. E allora questo lo devo ammettere per poter ringraziare. Devo fare una funzione di modè per dire todà. Devo ammettere per dire grazie. Giusto? E forse questa è la difficoltà, perché nessuno di noi per natura è pronto a dire, abbassare il proprio io. Questa è la nostra natura da essere umani. Allora, abbiamo definito il nemico, ora abbiamo più facilità a conquistarlo. E come tutte le cose, la Torah ci dà la forza e la possibilità di farlo. Possiamo anche applicarlo in senso molto banale, non aspettare quelle occasioni speciali. Questa è una cosa bella, adesso quando sarà il momento la metterò in atto. No, in famiglia, tra marito e moglie, tra fratelli, tra genitori, tra amici, in momenti più banali, quelli sono i momenti in cui mettere in atto questa cosa. Quelli sono i momenti in cui riconoscere, se con la parola, se con un messaggio, se con qualche cosa, il riconoscere, il ringraziare, il ammettere in un certo senso, il mettersi un attimino da parte. Cosa molto interessante con la quale concludiamo, c'è scritto nel Rashi, e lo vediamo nell'ultima citazione, la penultima parte di questa pagina, dove c'è scritto di nuovo Likutei Sichot, penultimo paragrafo, giusto? Besof Parashat Bikurim, alla fine del brano che riguarda i Bikurim nella Torah, è detto nel Rashi, nel commento di Rashi, Neemar, Bat kol yotzet me hashamayim umevarechet oto. Quando la persona finisce tutta la funzione, quindi ha portato i propri bikurim, ha portato le primizie, ha recitato tutto quanto il brano che doveva recitare di ringraziamento. C'è scritto, Rashi riporta dai maestri, che un eco, una voce celeste veniva emessa dal cielo, Yotzet Mashamayim, Umevarechet Oto, e lo benediva dicendo, Heveta bikurim hayom, hai portato oggi le primizie, Tishne leshana haba'a, avrai la possibilità di ripetere la mitzvah l'anno successivo. Questa è una cosa, come qui indicato nella fonte, davar zehu yichudi le mitzvat bikurim. Questa è una cosa unica che si trova solamente in questa mitzvah dei bikurim. Velo mazzanu ken beshum mitzvah batorah. Non troviamo una cosa simile in qualsiasi altra mitzvah della Torah. Shetetze bat kol, che ci sia un eco celeste, una voce celeste che dica, che lo benedica a chi fa la mitzvah. Betevarechoto, che gli dia una berachà. Lizkot ken beshanaba, di poter ripetere di nuovo a meritare la mitzvah l'anno successivo. Perché? Concludiamo. Ulam mitzvat bikurim mevusseset al haikaron shel midah keneged midah. La mitzvah delle primizie si basa sul principio di misura per misura. Così come tu ti sei comportato, così ci si comporterà con te. Quindi, Hashem hinchilanu et haaretz, Signore ci ha dato la terra, ve'anu meshivim lo be'od alkach, e noi riconosciamo questo ringraziandolo per questo. E allora c'è anche il ritorno dall'altra parte, ve'lachen, e di conseguenza, kasher mekayem et ha-mitzvah, ve'anita ve'amarta, quando la persona, come abbiamo detto nella parasha, dichiara alta voce, grazie a Kadosh Baruch Hu, parashat ha-odah, tutto il brano di ringraziamento, e come vediamo nel Rashi, lashon haramat kol, il termine che la Torah usa non è un termine usuale, ve'anita, è un termine, Rashi spiega, di dire qualcosa ad alta voce, uzochem midah keneged midah, allora lui merita che anche dall'alto ci sia una voce che lo benedica, midah keneged midah, misura per misura, bat kol shem varechet oto tishne, possa tu ripetere la mitzvah anche le shana haba'a, anche per l'anno prossimo. Amen, ken yei ratzon.